Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. In Italia sono più di 6 milioni le persone affette da problemi legati alla tiroide, una piccola ghiandola a forma di farfalla posta alla base del collo, impegnata a svolgere tante diverse funzioni, tutte fondamentali per la nostra salute e il nostro benessere. Proprio in occasione della Settimana Mondiale della Tiroide, che si concluderà domenica 31 maggio, individuiamo i gesti e le attenzioni che l'aiutano a stare bene. A Obiettivo Salute ci aiuta il professor Alfredo Pontecorvi, ordinario di endocrinologia presso l'Università Cattolica di Roma, Policlinico Gemelli. Professor Pontecorvi, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, partiamo da un'aggiunta salutare che piace alla nostra tiroide. Lo iodio è l'elemento essenziale per produrre correttamente gli ormoni tiroidei e dobbiamo avere un apporto adeguato, pari a circa 150 microgrammi al giorno. In gravidanza però ne occorre un pochino di più, perché la mamma deve dare lo iodio a se stessa per produrre i propri ormoni tiroidei e anche al feto, che dal terzo mese in poi produce i suoi ormoni tiroidei. Professore, ci aiuta a individuare i segnali di un mal funzionamento della tiroide, che può funzionare troppo o troppo poco, insomma perdere il ritmo? Nel primo caso, il caso in cui la tiroide funziona di più e si parla di ipertiroidismo, è molto facile accorgersene, perché in genere i sintomi sono drammatici, sono molto evidenti, c'è la tachicardia, c'è un dimagrimento a volte molto spiccato, anche 5-7 kg in un mese, ci sono i tremori, l'insonnia, estremo nervosismo, diarrea, mentre nel caso opposto, il caso in cui la tiroide funziona di meno, cioè l'ipotiroidismo, tende in genere ad essere molto più subdolo, più sfumato, i sintomi sono molto più difficili da rilevare e si confondono con normali sintomi causati anche da altre situazioni, una certa stanchezza, una tendenza alla depressione, una tendenza più che all'aumento di peso a non dimagrire quando si mettono in atto le procedure per dimagrire in maniera corretta come la dieta e l'attività fisica, ma per diagnosticarli la cosa principale è probabilmente misurare il TSH, che è un ormone che regola la tiroide ed è influenzato in maniera molto sensibile dai livelli degli ormoni tiroidei. E se lo troviamo molto basso dobbiamo pensare a un ipertiroidismo, e se lo troviamo molto alto dobbiamo pensare a un ipotiroidismo, e solo successivamente misurare gli ormoni tiroidei o fare l'ecografia. Oggi dobbiamo risparmiare anche su queste analisi. Bene, per oggi è tutto, ringrazio il professor Alfredo Pontecorvi, vi do appuntamento sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per le nostre videopillole. Oggi insieme al professor Franco Berrino parliamo dei segreti per invecchiare bene e in salute. Buona giornata, un saluto da Nicoletta.